Buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco, e allora hai notato le sfumature. Tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show. Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero. Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldro Vandi, Mastro Giovanni, Cuve Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte? Tu di sciacalli ne tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte, per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show. Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.